La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Ben ritrovati, nuova stagione, tanti ospiti, idee per questa trasmissione che cresce assieme a voi. Non smetterò mai di ringraziarvi per l'affetto che dimostrate, per le continue proposte e sollecitazioni che inviate all'indirizzo la prima volta at radio24.it. Veniamo subito a questa sera. L'ospite, forse qualcuno lo ha già riconosciuto in questa esecuzione, è il grandissimo Salvatore Accardo, violinista di fama internazionale, direttore d'orchestra, ma soprattutto un uomo che ha messo il suo talento a disposizione dei giovani. Tutti temi che tratteremo nel corso di questa lunga e bellissima, fatemelo dire, intervista che comincia con l'ultimo progetto del maestro, che è il concerto dal titolo Il canto della fabbrica, che si è svolto venerdì a Settimo Torinese nell'ambito di Mito all'interno della fabbrica della Pirelli. Allora, di questa composizione è nata così, parlando con dottor Calabrò, con Antonio Calabrò di Pirelli, e con me mia moglie e Francesco Fiore, che è poi il compositore, quello che ha scritto questo pezzo, e si parlava appunto di quello che può essere sentire della musica in fabbrica, perché noi negli anni 60-70 mi ricordo che facevamo dei concerti in fabbrica con Luigi Nono, con Claudio Abbado, con Maurizio Pollini, eccetera. Quindi c'era un po' questo interesse, no? degli operai, dei lavoratori, anche ascoltare musica, perché sennò per loro era difficile andare in giro, eccetera. E così ci inventammo questi concerti. Partendo da quello, poi abbiamo detto: ma si può anche cercare di comporre qualche cosa che ricordi gli operai, che ricordi la fabbrica, che ricordi i macchinari, eccetera, eccetera, che cose che sono già state fatte poi anni fa da grandi compositori come Shostakovich, come Cage, eccetera. Quindi, così parlando, è venuta questa idea, e così abbiamo chiesto a Francesco Fiore di venire a visitare la fabbrica di Settimo e di vedere che cosa veniva fuori ora proprio poi con questa visita, appunto sentendo, vedendo macchinari, eccetera. E credo che sia venuto fuori qualcosa di molto suggestivo, di molto accattivante, perché soprattutto le fabbriche di oggi sono un po' diverse dalle fabbriche di una volta, perché sono molto più tecnologiche, poi ci sono i robot, eccetera, e credo che proprio i robot abbiano così dato l'idea a Francesco di scrivere un pezzo musicale che noi chiamiamo Fuga, no? Che è un pezzo diciamo molto ritmico, che ricorda molto i movimenti dei robot, e che si passa poi da strumenti a strumenti, un po' come succede nella fabbrica. Ecco, questa è un po' l'idea. E sarà un concerto in cui tra il pubblico ci saranno anche i lavoratori della fabbrica? Sì, in cui... direi proprio di sì. Settimo ci saranno gli operai della fabbrica, sì. Ecco, volevo chiederle una cosa. In generale lei come si prepara per un concerto? Cioè, ha dei rituali, delle cose che deve assolutamente fare, o ogni volta cambia, insomma? No, non sono uno che va avanti facendo le stesse cose. No, poi dipende dalla musica che devi suonare. Se è musica che conosci molto bene e che hai suonato tantissime volte, c'è una preparazione diversa da una composizione che suoni per la prima volta, che è nuova per tutti, per noi che suoniamo, per il pubblico che ascolta, eccetera. Quindi anche per noi la preparazione è un po' più dura, diciamo, in un certo senso, perché c'è sempre qualcosa di nuovo da scoprire. Poi la musica è un miracolo in questo, perché ogni volta che suoni qualche cosa c'è sempre qualcosa di nuovo. Lei, parlando di musica e di bellezza, ha scritto una lettera davvero bella alle sue figlie, che hanno ora 9 anni, se non sbaglio. Ora ve ne facciamo sentire un estratto. La La musica è fondamentale per ogni essere umano e non si può vivere senza. Un filosofo tedesco, Friedrich Nietzsche, si spinse fino a scrivere che l'esistenza privata della musica sarebbe un errore. È un linguaggio dell'anima che arriva dritto al cuore delle persone e ci circonda in ogni luogo e in ogni tempo. Già da piccolissime avete trascorso ore serene sulle note di Mozart e di Tchaikovsky. Quando avete compiuto 3 anni, su vostra richiesta, io e la mamma vi abbiamo fatto trovare sotto l'albero di Natale 2 violini per bambini. A me non importa se non vorrete diventare delle musiciste professioniste. Quello che desidero è che la vostra educazione musicale sia seria, cosa che nel nostro paese è difficile da attuarsi. Anche mio padre Vincenzo, incisore di cammei a Torre del Greco con la passione dell'opera, nel lontano 1944, quando avevo 3 anni, mi donò un violino per bambini che acquistò con grandi sacrifici. La mamma ne fu assai contrariata. «Ma quanto l'hai pagato?» gli chiese. E lui: «Ma poco, 1000 lire». «1000 lire? Ma sei pazzo?» Perché 1000 lire a quei tempi, con la guerra e la povertà, erano un bel po' di soldini, erano un bel po' di soldi. Ma con quel violino, con la musica, il mio sogno era divenuto realtà e il mio destino tracciato. Maestro Accardo, in questa lettera lei ha parlato della bellezza della musica, dell'importanza della musica nella vita delle persone. Ci spiega perché per lei la musica è così importante? Ma se pensiamo alle parole di Nietzsche, che disse che la vita senza musica sarebbe un errore gravissimo, e quindi si capisce perché. Perché la musica ti dà una forza interiore, un'emozione che è veramente unica e te la porti poi per tutta la vita, ed è veramente come dice Nietzsche, un errore. Io dico che è veramente un peccato che la musica non venga fatta ascoltare a tutti e che tutti poi possano avere, secondo me, il diritto di scelta della musica da ascoltare, perché noi nel nostro paese purtroppo abbiamo questa mancanza della educazione musicale nelle scuole, che dove dovrebbero veramente insegnarti ad ascoltare la musica, non solo a farla ma ascoltarla, perché non è solo chi la fa ma è molto importante chi l'ascolta, no? E appunto i giovani devono essere messi in condizione di poter scegliere la musica da ascoltare. Senta, lei è figlio del Sud. Le volevo chiedere, quando ha citato i concerti che a Torino appunto avete fatto nelle fabbriche negli anni 70, quando parlava attraverso la musica a quella generazione di giovani del Sud che erano venuti a vivere a Nord, no? Che cosa sentiva quando si esibiva appunto in quei concerti? Ma io quello che sentivo è quello che davo anche, perché poi è un dare avere, non è la musica, è chi suona ti dà emozione e poi chi riceve questa emozione te la ridà. Quindi c'era questo circolo di emozione, di energia che è indispensabile nel rapporto fra musicista e ascoltatore. Ora ci fermiamo per qualche istante, torniamo tra pochissimo. La prima volta. Ogni giorno milioni di tonnellate di merci viaggiano nel nostro paese. Ovunque, dai porti alle industrie, fino alle nostre case. Noi vi raccontiamo questo mondo in perenne movimento con uno sguardo rivolto all'intera filiera dei trasporti, via terra e via mare. Una mobilità avviata sulla strada dell'intermodalità e quindi del rispetto dell'ambiente. Su Radio 24, lunedì alle 13.45, hashtag autotrasporti, con Andrea Ferro. Sabato alle 13.15, container, con Massimo De Donato. La prima volta. suonavo il violino e giocavo a calcio, la mia seconda passione. Ho sempre vissuto con leggerezza l'amore che mi legava alla musica. E questo è Salvatore Accardo, l'ospite di questa sera, ben ritrovati dunque. L'ospite è questo grande violinista, direttore d'orchestra, che ci racconta del suo sud e di un talento vissuto con generosità e anche tanto rispetto. Un talento che non è mai stato imbrigliato nei cliché. Delle cose molto belle anche del suo percorso da ragazzo, ma non tornerei appunto a parlarne perché ormai ne hanno parlato tutti. Però una cosa che mi ha colpito è stata che a 14 anni ebbe un'esitazione sulla strada da percorrere perché era tirato anche dal calcio. È così? Mia seconda passione nella vita. Ora purtroppo è solo una passione sedentaria, ma allora era una passione che coltivavo insieme ai miei amici di Torre del Greco. Avevamo formato una squadra che si chiamava Gli Amici della Musica. Di questa squadra era il portiere, e devo dire che ero molto bravo, perché anche il Napoli aveva messo gli occhi su di me, solo che poi a un certo momento, quando ho dovuto scegliere, ho avuto piccoli dubbi, diciamo così, ecco. Poi dopo sono passato direttamente, completamente alla musica, rimanendo però un grande appassionato di calcio. Avrebbe scardinato tanti luoghi comuni facendo il portiere e il violinista, sarebbe stato... sì, ma infatti è stato proprio quello che mi ha un po' poi frenato, il fatto di poter avere degli incidenti alle mani e alle braccia, quindi quello mi ha proprio convinto poi che era meglio lasciar perdere. Ecco, poi non ci sono stati altri momenti in cui ha dubitato, diciamo, delle sue scelte di essere musicista? No, assolutamente no. Devo dire che rifarei la stessa cosa. Ecco, le volevo chiedere una cosa, visto che stiamo un po' andando anche nel passato. Lei, cioè, esiste un concerto come direttore d'orchestra che ricorda più di altri, che è stato veramente intenso, che ha qualcosa di differente rispetto agli altri? Ma io un concerto, più che come direttore, come violinista, che ricordo con particolare emozione, è stato l'esecuzione per la prima volta dei 24 capricci di Paganini col violino di Paganini, che la prima volta fu a Genova, poi portai il violino di Paganini in tutto il mondo, suonai poi i 24 capricci in tutto il mondo. Ma il primo concerto col violino di Paganini è stata un'emozione che si dimentica veramente con difficoltà, un'emozione enorme. Ecco, lei ha portato veramente tantissima leggerezza anche nel modo di rilasciare interviste, nel modo di parlare di musica, e credo che questo sia un grande segno appunto che resta anche ai giovani che si avvicinano. Sì, io vedo che molte volte i ragazzi sono un po', tra virgolette, spaventati, no? Dalla musica, dall'ascoltare musica classica o di incontrare i musicisti. Invece devono capire che la musica è solo veramente una grande emozione. Se ci si emoziona, quello è tutto. Non bisogna cercare chissà cosa nella musica. Emozione allo stato puro. E questo la grande musica te la dà subito. Io lo vedo con i bambini che si avvicinano alla musica, lo vedo con le mie figlie, eccetera. Si emozionano, e questa è una cosa bellissima. Non devono avere il terrore o il timore di avvicinarsi alla musica. Ieri, per esempio, le due bambine hanno sentito tutto il giorno la Carmen e le sinfonie di Mozart, e quindi, però loro non è che non ascoltino altro, però hanno la possibilità di scegliere. Ecco, è quello che secondo me manca nei nostri giovani, e non è colpa loro, è colpa di chi non gli dà la possibilità di effettuare questa scelta. E chi invece cresce nella musica anche in Italia, poi lo stiamo vedendo, è costretto ad andare via perché purtroppo, e questo è un tema che viene discusso anche in altri settori, il nostro è un paese in cui la meritocrazia fa fatica ancora ad affermarsi, diciamo, come principio etico. Eh sì, questo purtroppo succede e nel nostro paese si chiudono le orchestre, no, sono state chiuse le tre orchestre RAI negli anni passati, e questa è stata una cosa secondo me disastrosa per quanto riguarda i giovani musicisti, perché tre orchestre RAI che chiudono vuol dire centinaia di giovani che non lavorano. E quindi molti sono stati costretti ad andare fuori. E infatti noi troviamo magari delle orchestre in Germania, in Inghilterra, con tanti giovani italiani che suonano benissimo e che sono dovuti andare lì per lavorare. Insomma, e questo è un peccato. Lei però continua ad impegnarsi molto con i giovani, cioè coltiva veramente con grande generosità appunto questi talenti. Per forza, cioè bisogna che qualcuno faccia qualche cosa per i giovani, quindi quello che posso fare io è dargli l'occasione di mettersi in mostra, di lavorare, di suonare, per esempio con l'Orchestra della Camera Italiana, che è diventata una fondazione, orchestra che non è aiutata da nessuno. Noi abbiamo inventato delle borse di studio per i giovani musicisti che suoneranno con noi, per esempio a Roma, al Teatro Eliseo, dove faremo questo numero di concerti con questi giovani nuovi che si avvicinano a suonare in orchestra con delle nostre borse di studio, e penso che sia una cosa importante. Senta, così per chiudere questa intervista col sorriso, ai ragazzi racconta anche di quando facevate le partite di scopone. A me piace tantissimo questa immagine di lei con Abbado, Nono, Pollini. Ma giochiamo a scopone anche con loro, quindi i ragazzi sono pronti, se non sanno giocare a scopone in orchestra. E a calcio. A calcio, vai. No, è stato molto bello chiacchierare con lei, volevo ringraziarla davvero tanto. Perché... Grazie a lei. Anche questa puntata volge al termine, io vi ringrazio per essere stati con noi, potete venire a trovarci sulla nostra pagina Facebook Radio 24 trattino la prima volta. Buona serata a tutti, da Cristina Carpinelli.